Vabbè, a tali dolori passati sono. Sì, ancora no. Ah? Ancora no. Ne sempre, vabbè, ma saranno proprio sopportabili, dai. Beh, non so come te, Yandu, viravi un bel divorzio, no? Sono quelli post-operatori. Adesso domani c'è la visita di controllo. Casino, casino, lui d'Areva, c'era d'Areva. Mi sa che ti mostrava da doccia, se no da poi c'era d'Areva. Ma tu rata è lui, ma lo sai no che mi pare di no? Sì, è tornata. E allora, so come lei da mia moglie, vi dice turrata, ma non penso, no? Dice è tornata. Forse sta tornando adesso. Sì, è tornata per tutti, non solo per me, per noi, no? Che stanno facendo quanto fa? Non so se è acqua, però. Lì vicino alla questura, stanno aprendo, proprio di fronte alla questura. E non si sa se per quel coso lì stanno praticamente cambiando i tubi, poi una volta che arrivano a un pezzo lo ricollegano al vecchio, poi di nuovo riaprono, chiudono l'acqua per continuare a mettere i tubi. E allora? Vuol dire che sono pratiche, brucche? Non è nessuno, Claudio, Dromiddo, Claudio! Sei un po' fuoma, ma è quello spalliero. Gesù Maria, boh. Andiamo, andiamo, la caricata. La minorita è mai niente. Ecco. Andiamo, andiamo, cazzo. C'era quel poco di Natalino pure. Sì, vabbè. Cosa vedi? E beh, siamo uscito. No, stasera no, stamattina sono attaccato proprio la macchina. Perché sono andato a Udilo l'altro giorno, no? Sente Roberto Galato mi ha fatto passare questa strada che porta. Ecco, ti ha ripetuto, perché c'era la strada interrotta. Dovevo andare al rifugio dell'acqua, che sarebbe quello che c'era in alto. E invece la strada era interrotta e mi ha detto, va, puoi passare dalla strada laterale e ti riporta sulla strada che devi fare tu per andare al rifugio dell'acqua. E niente, praticamente ho fatto quella strada, cazzo, ma era una mulattiera, cazzo, un'unica bus, tutto un po' d'angere, ho fatto la macchina, sembrava la macchina da vivi. Ma hai già detto, vabbè, la prossima volta non ascoltare nessuno. No, vabbè, non è, io mi ha detto la strada che si poteva fare, io quella strada non la conoscevo, la verità, ma cazzo, per carità di Dio, come ha piovuto, era tutto fango, qui. Deve essere la cacca delle pecore, cosa si attacca anche se dalla cacca il pulibappa non esce, rimane oleoso. Positivo, dai, non ci sono problemi, dubbio rotto, capisci a me, capa. Positivo, capa di roggio. Positivo, dai, non ci sono problemi, dai, la cosa è bella e non ci sono problemi, capa, capa. Dai, comunque, sono stato soddisfatto, dai, con la macchina, va bene. A voglia, ma più che bene già, non ci saranno problemi, capisci a me, gata. Com'è, va bene? C'è bene, c'è bene. Cavallo. Suonato. Attenzione, chiami lo più rumo se tu ascolti Luca, 2131, direzione Cagliari da parte mia, capa. Microfono che c'era prima faceva cagare e ne ho messo un altro microfono. metà io, capito? Ma tu da metà trovi in macchina, no? Ti conviene? No, stavo scattando. No, non ne voglio di quello. Ma va bene quello che c'ho, non è mai così. Via per Parigi, va bene quello che c'ho. Mi dai, basta che voglio. Cava, cava, Gianni doppio rum, non ci stanno problemi. Allora, qua ci aspetta. Ecco qua, esclude dietro il quando ascolta. Se vuoi non ti ascolti. E puoi modulare tranquillamente. Cava, cava, cava di doppio. Mentre c'è la staffa dell'altro, l'originale. C'è la staffa dell'altro Typhoon, certo. E cosa tu vuoi la staffa dell'altro Typhoon? Tu cosa ti fai la staffa che lo tieni in casa? È attaccato al mobile già. Nel 2009, allora aspetta, nel 2009 ho lasciato la staffa del Typhoon, e la del 2009, allora del Typhoon l'ho messa quella del 2009, e quella del 2009 che si rimane era del Typhoon. Perché l'hai fatto così? Perché non avevo la canina. Capito. No, gira già, gira bene, però che cosa non già sta. La provinciale, un po' qua. Già, non mi posso subire, già mi sono preso in definitivo. Per darlo di meno mi interessa, rimane qua, non mi interessa. Poi quando sarà più avanti me li faccio forniciare a Roberto pagando, me lo posso forniciare. E l'apparecchio torna nuovo. Che pagare? Positivo. Beh, perché io volevo l'apparecchio modificato, però che non prendeva tutti. Che si poteva utilizzare in casa, che non prendeva cubi, perché il coso è parato a prendere i cubi. Ma non sono i bigliacoletti. Non so te come si va bene. Poi è come la mascherina, no? Già, diciamo che gli hanno messo un puntino bianco. Aspetta, lui ti mando la foto. E manda. Questa sei manda, Ehi, trovo andato. Un po' cruciale in aereo, se non è vecchio, ma non conosco. Allora non hanno trattato bene questo apparecchio già. Cavagaba. Sono ordinato una matassina da 100, da 100 grammi di stagno e non aggiungo più. Cavagaba. Bianco, per le volte ecco, vedi, sono a zero, e quello è il puntino bianco per tenerlo così, poi se lo vuoi aumentare, vedi, cavallo, questo è un punto di riferimento, dai. Io qua non ne ho bisogno di portarlo, non lo faccio io con questo, cazzo, tu hai capito? Non si vede nemmeno che ho fatto la bomboletta. Già, allora, questo baracchino, le modifiche costano, mi sa che ho pagato, non mi ricordo chi, 2,50, solo le modifiche. Non lo so, non è completo, non c'è la staffa sua, la staffa ci vuole. Sì, essa ciappa un po' di naso e beva, si trova. Io, ripeto, l'ho costruita io perché non c'era. Me l'ha detto dopo che non c'era la staffa. Bastardo, vabbè. Che barriera, andava. E vediamo adesso. C'ha la staffa cosa c'ha? Due cose, c'ha due... Due abitate, due bruci, c'ha. Aspetta. A parte con il pucchiaro, con il barro. E ti ho dato la foto. Aspetta che attacco l'altro, dai. Cioè, non è che sia vecchio, perché l'ho contato già. Lì, purtroppo, la polvere tocca. No, ma già è abbordabile, sembra abbordabile. Bisogna vederlo da vicino. Purtroppo la polvere che non ce l'ha, tutti ce l'abbiamo. Poi è lì, tra l'altro l'ho smontato, e sta passando lo straccetto. Già, l'apparecchio, ripeto, c'è un po' di... c'è la doppio relè dentro. Io ne ho cose. È una bella modifichetta, là. Cioè, visto così, se ti mando una foto non sembra che la faccia un graffio, si sente. Poi questa qua è martellata la vernice, quella non è liscia a me. Vabbè, ma no, ma perché ti spazi, la bomboletta rimane così, rimane martellata. Ma adesso è a posto, è perfetto. Ma andava fuori prendere e come fare, no? Assolutamente no. Ci pensiamo. Poi sarai tu a farti la lampadina, la lampadina. Io no, non ne apro perché già una volta si è attaccato un filo e poi c'è un mezzo casino, comunque vabbè, è stato sistemato, l'aveva sistemato Fabrizio. E poi se ti vuoi cambiare la lampadina, quello vedi tu già. Ah, la mia non fate quei lampadini perché l'ho visto su eBay con il BC Blue e mi piace molto. E allora non fanno, ripeto, questo qua poi magari ci sono i pezzi, mi ricordo, e paghi una cazzata, mi se tu vuoi fare l'uovo, anche io se io metto ma faccio un uovo nuovo, quanto lo vedo dopo, 600 euro, lo lascio così, poi vabbè, tanto una rinfrescata, poi la mascherina, insomma, non è che sia nuova, ma il graffettino ce l'ha, c'è gente che non l'ha tenuto conto, ora si trova. Sicuramente l'hanno usato in casa, sicuramente così. Però se lei non ci fa cazza e poi le metti la mascherina nuova, perché il coso è già abbastanza nuovo, dai, la cornice. Vabbè, ma canto vuoi per il radio, io tira i giomi. Io meno di 200 non la do. Meno? Meno di 200. E il prezzo suo, io l'avevo venduta 250. Ok, buonasera a tutti. Mi state ascoltando bene? Sto andando col dipolo. Sì, vado a vedere. Vado a vedere. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 60. Come hai segnato? 9, 10. Lui dice, va bene. E tu, Lupo? Ma vai negativo la metà, però, eh. Vado in negativo? Boh, non lo so. Questa è una radio che può andare anche che negativa. Già, da te è negativo. Io le dico anche per me. Vabbè, magari non è accordato bene. Ehi, io siamo tutti giusto per fare proprio, no? Non gli sta a girarmi Bibi dice di fa allineare una radio per allineare, per accordare un dipolo, giusto per provare. No, ma non è il dipolo c'è uno è stazionato. È la radio che modula così, dai, una radio vintage questa. Com'è la modulazione? È stata buona? Sì, è abbastanza. Cosa lui? Ho detto che l'ho ripiato dopo la prima. Va bene. Ok, dai. Passo con l'altra, era giusto per provare. Sta per piovere. Oggi, domani, dopodomani. Stabiliamo buona. Io oggi mi sono lavato la macchina, adesso facciamo. Ah, che cazzo già. Vabbè, hai ammazzato il tempo, ma stanotte piove. Sta già piovendo, sta piovigginando. Dovrebbe aumentare più tardi. Ehi, vabbè, non potevo lasciarla così, non era tanta cosa fangosa. Come sono salito sui punti radio a Usilo, che ho fatto quella stradetta lì, era tutto fangoso. C'era la cacca delle pecore, cazzo, ma con quel pulivato non esce oleosa che. Lì ci vuole la gasolio, capito? Gasolio, benzina. Questa già è positiva. Cosa stavo dicendo? L'ho portata stamattina, c'è una mancata che non la voglio vedere così. Ho detto, vabbè, adesso prendo la foto e gli do una sciacquata, le devo dare una spruzzata, poi già mi sono una spruzzata, non mi piace, già ce la vado a vedere. Ho tutto da dentro, fuori, tutto gatto, ho messo gli altri mascichi muti, e adesso sembra una prostituta tutta profumata. Scusa già, ti ho già sentito, si è recita al mercato, vedi? Sono andato a abbassare la petta la pressione, che c'ho roba nella petta la pressione. No, un po' di cinghiale di buccio, non la gatta, ciao la mia. Ho messo un bel pezzo di poppa di cinghiale, con carote, cipolle, e stanotte la faccio nelle rocce. cinghiale non mi piace, mi piace più il sughetto che il cinghiale. A me il cinghiale piace nel sugo già, buono, l'ho mangiato un qualche volta, buono, buono, buono. Però bisogna saperlo cucinare, eh. E dopo l'ho mangiato lo sapevo cucinare, l'ho cacciato duri e lo sapevo cucinare, mi ha fatto un bel per tutti. Il problema è che ha sapore del selvatico il cinghiale, a me la carne selvatica non piace, non mi piace la pepe, non mi piace la roba a cacciagione, proprio non ci vado molto d'accordo. Va. Gli uccelli già li mangio, però per dire sempre di là e pre, la lepre a me lo stesso non mi piace, ha sapore di selvatico. Comunque faccio fatto così. Ma chi te l'ha fatta mangiare, cioè no, non sa che è tutta la selvaggina va messa 24 ore a Sirinà, come ti dice Sassarice. Io ce l'ho da ieri a bagno all'acqua d'aceto il cinghiale. Mi ha insegnato mamma, mi ha insegnato i cacciatori, l'ho sempre fatto. E se non vuoi più delle righe, non mi senti il sapore di selvaggio. Vai tranquillo, comunque se una cosa non piace, non piace, a me piace. Ora sto facendo, va bene, ok, allora Vannino. Tutto e contiamo tutto, va bene. Avanti Luca. sono una radio che fai, là, allucinante. Fai una radio, boh, impressionante. Questo è il mitico 430, e boh, non c'è altro nessuno, altro 440, 430, 460. Quello stavo usando poco fa era un'altra radio vintage, e poi c'ho anche il 140 che è a fianco al 430, però invece c'è che sto usando il 430 o il 140, beh. L'altra è una, un 820 della Kenwood, che però insomma ce li ha messo, ma esce benino, beh, esce benino. C'è da magari da, non so se si può fare, far dare picchi positivi, negativi, non lo so, me la fottiamo. È giusto per avere anche quella, fa parte dell'altra base, dell'altra Stefania Vintage, infatti l'ho già spostata, l'ho messa dall'altra parte. Va bene, chi c'è a parte io, tu e Gianni, io e quelle rose, chi c'è? Ah, boh! C'è anche Vanni! Vanni è andato a accendere la caldaia. Ah. Ciao. Vabbè, diciamo solo lui. Più c'era il portantista che aveva la propria Vanni. Già raggiunto, non ti preoccupare. Adesso ancora non ho perso il vizio, fino a quando non le dicono nome e cognome, non la smette. Allora, io ascolto molto volentieri, ci sono discorsi belli, discorsi meno belli, lì link nazionale. Oh, cavolo, aspettano quando entra la gente che c'è sempre i rompicoglioni. Va. Ciao, che l'ho vinto, poi sentito anche a te, dai. Buonasera, e ben sentito. Ma con che apparecchio sei stasera? Facci sognare. Mi piace molto quell'apparecchio. No, ma questo qual è, quello che ti ho dato io? Ma tecnico camionista, ma buona giocata. Sì, è un amico Gianni Capridue, è un camionista che però fa anche il tecnico, è molto bravo, è... diciamo che è come Fabrizio, vai, ti faccio un nome, insomma, cioè, fa il suo lavoro e più tecnicamente fa queste cose, lo fa per hobby, le piace, cioè è preparato, capito già? Come Roberto Rapido. Esatto, come Roberto Rapido, come tanti, dai, hanno la passione dell'elettronica, che si impegnano a fare determinate cose, che sono abbastanza bravi e competenti. Questo è molto bravo, molto molto molto bravo. E quello qua che mi ha dato, che ho dato il frontalino dell'Inuit a tuo padre, già va bene, va benissimo, ben vengano queste persone che si danno da fare in queste cose così. Anche l'amicizia è molto importante, non c'è un amico che fa queste cose, è importante, perché non c'è nessuno, purtroppo non c'è più nessuno che fa riparazioni, perlomeno qua in provincia di Sassari, forse provincia di Cagliari, non so. Va bene, avanti già, ripeti. Sì, comunque è bello quella parecchia, ma l'ha mandato a vedere. È veramente bello come estetica, come si presenta. Sì, manda, io anch'io sto sempre, perché adesso purtroppo io ho un problema, che la base che avevo prima, cioè dove c'erano tutte HF, VHF, UHF e così via, tutta la parte amatoriale, è molto molto grande, e riempirla con i vintage ce ne vogliono tanti, quindi ne ho preso un altro, che mi hanno dato, adesso molto probabilmente me ne deve dare uno, appunto, mi ha procurato anche Roberto, e quindi sto riempendo tutta quella parte lì, infatti mi sa che devo comprare un altro commutatore, perché quello a 4 non basta più per commutare i vintage con, da una base all'altra, insomma, ecco, ho fatto una separazione bella, ecco, ti mando le foto, bella, questa dove sto trasmettendo adesso, questo solo Kenwood, sono due linee complete di Kenwood, linea completa del 430, linea completa del 440, capito, con alimentatori sia SP430 sia SP50, le due colonnine e i due MC60, manca purtroppo l'accordatore automatico del 140, che già lo trovo, poi a costo di pagare un patrimonio, ma già lo trovo, non me ne fatto un cazzo. È tutta vintage, Baldacchi, che è più grande, tutti a scalare, tutti a scendere, ce ne sono già nuovamente 7, adesso se faccio la sopraelevata, come dice tuo padre. Ce n'è di gente attaccata con la radio, piace anche Gianni, però non me ne posso disfare. Uno perché anche ultimamente ho messo le valvole nuove, lo sai, e quindi sta funzionando alla grande, mi dopo comodo e passo dall'altra parte, è già accesa da poco fa, così scalda. E prendi già che mi sta scurando il telefono. Sì, via, ma lui mi dice qui un prima, invece di domani a te da 50 anni, sta ragazzi, non me ne vuole dare nessuna manina. Ehi, ma l'altra te lo devi dare, ma... Ah, ma io ci sono su internet, mi dice, ti piace, non ce ne sono tante su internet di DAC. C'è il Mark 5, DAC Mark 5, c'è Mark 3, ce ne ho visto diversi. Dall'America però mi viene a ordinare. Bisogna controllare, ma ce ne sono belline, se ho diverse radio belline americane, gli americani sono, fanno sempre le cose in grande, quando le fanno le fanno in grande. Già un secondo che me devo spostare. Lo so, bisogna fare, diciamo, dal valore italiano a quello americano, e si sa. E si sa più o meno quanto devi dare. No, si è spostato un attimo Claudio, devo dire sì. E praticamente sì, si paga lo sdoganamento. Ma quale cobra ho detto? Ho capito. Che non sia il prefinale. E magari ce l'ha qualcuno che lo sa fare, che è proprio tecnico, già riesce a mettersi la posta. E ho detto che non sia il prefinale che sia partito. Se si butta chi riesce a farlo, segue le piste, tutto quanto, e bene o male che cosa può essere. Perché se puoi tirare i lupi, se non sono rimantiti i finali, che c'era qualche massa, qualche cosa del genere, anche lui c'ha dei limiti, non è che può fare tutto, però già si arrabbia abbastanza bene, già. Ci vogliono i saldatori ad aria, eccetera, sono microcomponenti. Io ho preso questo qua per cambiarmi le lampadine e basta. Però per cambiare le lampadine c'è da smontare da mezzo apparecchio, tutto quanto sul tavolino bisogna smontare, eccetera. Insomma, non è facile, dai. Comunque ti hai sbagliato una cosa, se prendevi il mio, io usavo quello là come punti di ricambio, era fatto il gioco, il mio funzionava bene, no, la mia era perfetta, non c'aveva un graffio, era nuovissima, ma sicuro non sono sicuro, però io ho pensato così perché nel mio non funzionava quello lì, nel mio non c'era l'ecco, ma penso che fosse solo una predisposizione, la cosa ha detto Marco, una predisposizione per l'ecco. Non so se collegate non funzionava, questo è lo che posso dire. Però premendo, non basta che non andava, ecco, usciva sempre con la stessa radio. Cappelli, potremmo fare tante cose, sì. Se si mette a posto, qui non puoi fare anche aumentare di imbatti, mi pare che arriva sino a 14 imbatti, che può con una semplice modifica che c'è su internet, arriva a 14 imbatti. Comunque già va bene, caspita, già va bene. Tu ne hai diversi, tipo i... Però lo Stato che spendi più di soldi, aggiustando, rifacendo, e come ne hai già fatto di lui, basta. Sì, mancati, visto che c'è lo smart in garage e cosa, si divisa solo per tutti, prendi un microfono, prendi questo. Io gli avevo fatto prendere una parata a tuo padre che c'era e quel negozio di usato, ti dico che chiama il microfono, io non l'ho preso perché aveva il microfono che avevano messo una vita lunga, erano passati da una parte all'altra del microfono, era da si terra. Se no l'apparato era bellino, lui ce l'aveva preso del padre. E io qua già mi diverto, io ce ne sono in canale, a Puglia. Ma uso sempre il 10, sempre sono sul 10, cioè, sono sempre sul 10, anche l'estate faccio i miei ex qua in AM e basta, in modo laterale non ci vedo mai, c'è una confusione. metteva sul 21 l'SSB, poi ci faceva spostare. No, no, io non sconfino mai, non mi piace sconfinare, ma proprio non l'ascolto su 45 se non c'è casino, ogni tanto saluto qualcuno, poi però adesso subito, non faccio grande impressione. E io ho scattato, mi sa che l'ho sentito anch'io qualche volta, tanti. Vabbè, si va perché si può. Io mi sono come tutti i momenti, non ho voluto nulla dopo pranzo, io sono abituato a fare la pellicchetta. E se stanno arrossando gli occhi da quanto ci sono. Ah, adesso non è ora di finire. E di andare a scuola non ne hai più intenzione. Ehi, vabbè. Ma almeno cosa c'era per salire? Vabbè, vabbè. Io la verità che avrei messo secondo piano le altre cose. Prima avevo cercato un lavoro, tutto il resto. Vabbè, però ho fatto quello che vuole. Diciamo che adesso il lavoro più difficile non va, ma il caso è quello. Questa pandemia, la pandemia. No, cosa brutta, chissà quest'anno un anno un po' così, un bel brutto. E infatti un po' per tutti, là, un po' per tutti. Un po' per tutti, oh yeah. Esatto, poi non sono uscito per niente, vabbè, avevo roba da fare a casa, un po' di cose le ho sistemate, un po' di cose le ho buttate. Tu quanti anni hai, Cla? Ah, sei giovane, dai. La sera faccio 46, il giorno 16 di questo mese. 1974. No, magari, Cla, grazie comunque. 46 ci sono tutti, e come? Chi più, chi meno? Gianni, doppio rum, ci sei? Aspetta, sto rispondendo a... Ah, capito, Cla, così, gli anni passano. Pensare che fino all'altro giorno c'avevo 14 anni, allucinante, c'avevo il Benellino all'epoca, mi sono mancunato io, ma io te ne vinco 20, fai un po'. Oh, anche il paccolino. Cosa già? ho detto a Claudio, se lo vedi a Luca, c'è anche il paccolino. Ma dai, ragazzi, c'è il paccolino. Il paccolino, come ce l'aveva qui? Geloso lui, perché io sono più giovane di lui. Sì, ma è giovane, E allora? Avevo fatto lo spezzone già, lo sai. Ho fatto lo spezzone nel capo, quando magari è troppo corto. Già pronto, ecco, ablato tutto. Da un microfono all'altro. Poi ci sono quei spinotti che lo puoi girare in qualunque modo e ti riesci a trovarti la posizione di un'altra connessione. Io mi ricordo di sì, che c'era uno spinotto così, per fare per cambiare la connessione. No, io con Luca non ne ho mai avuto. Comunque ho trovato il capo per mettere in quel microfono, Luca. L'hai trovato? Sì, c'è anche uno spinotto, è di quelli morbidi, belli. Solo che, cosa volevo dire, lo spinotto però è attacco, l'attacco del midrand normale, attacco midrand normale, quindi per metterlo sul 3009 bisognerà invertire i fili, quelli di sotto sopra e quelli di sopra sopra. Ho capito. Ma aspetta, tu c'hai il cavo del quello che ti ho messo a posto l'ultima volta? No, non sto parlando di quello. E posso mettere anche quello lì, c'è l'attacco, lo stesso attacco. Mi sa che ti do quello lì. C'è lo stesso attacco, va bene. Allora avevo segnati, non mi ricordo dove. Ah, nel gruppo era, ma mi sono fatto. Avevo segnati, mi sa, quei fili, aspetta. Perché non l'avevo segnati? Io mi lamento. siamo nel 2009, mi quello la marca neanche. Ah, la statica. Ecco, proprio nella statica, quello lì voglio cambiare anch'io, perché è aggiustato, non mi piace esteticamente, non mi piace. Se voglio mettere quello morbidoso, ce l'ho. C'è già l'attacco, no Luca, c'è già l'attacco fatto. Ti do quello di un microfono. Non è fatto, perché lui l'ha messo sul sì, non è fatto perché io lo mettevo su quello modificato. Vabbè. Ma come arrivare allo stagno? Mi arriva giorno 10, così ho lo stagno buono. E così sono più tranquillo. Avanti, chiodo, riprendi. Io che lo conosco. E spara pure sul microfono. Spara pure forte. Ok, Claudio, ma tu radio perception c'hai, la perception, e anche la gain c'hai ancora, la gain, io c'ho il microfono da tavolo, sia della gain quinto originale, e il microfono originale della perception, sempre da tavolo, che è tutto in ferro, cromato, una cosa così bella, è grande, ecco, come microfono, è tipo il 500, una cosa del genere, ma è molto, ma molto, molto più bello. Sì, poi ti mando la foto del microfono di quella da tavolo, ma una cosa così bella. È tutto cromato, grande, molto grande. E tutti dentro l'armadio erano, li sto togliendo uno. Già, ti ho mandato la foto. Guarda, qualche MBP5 ci sono sopra il tavolo, più. C'è quello della Precision, quello della Gain, che li ho dovuti sfruttare perché non ci stavano, perché c'è anche il computer, intanto faccio il computer, lo tolgo, ma rotto la base, lì faccio solo, tutto base vintage. Va bene, Cla, vai, salutami a Babbo, dai, ci vediamo, ci sentiamo dopo, vai Gianni. Allora, ci sentiamo. Cosa già? Qui. Già sono qua, oh via, casino, sto cazzo di microfono, microfonini, adesso là il problema non l'ha più fatto qua, con l'innesco che faceva sempre, infatti io pensavo che fosse l'alimentatore, e che ne sei, vabbè già, per quanto riguarda il microfono della Tactic, lì lo vuoi cambiare, dimenticavo. Però io lo stagno, non c'è problema. No, io voglio un stagno buono, tu non è stagno buono. Che E che stagno hai? Quello con la scritta blu. Stagno, ne ho piccolo, ne ho grosso, ne ho... Ehi, già, ma ci vuole un stagno buono, cavolo. Allora, quello che ho prima io, mi veniva poco, veniva un pezzettino, vediamo un po' se si vede la scritta. No, è sbiadita proprio, no. Comunque come si chiama? La bobina piccola, ok, con la scritta blu e bianca. Quello è buono lo stagno. Allora io ho fatto la saldatura anche ieri, perché ho fatto un riduttore che va dall'attacco a centri sigari della macchina sino con l'attacco paranine finale, perché ho degli apparecchi che sono con l'attacco paranine e qualche volta cambio apparecchi. Ho fatto questo attacco qua, Sinaidi. Ho usato lo stagno e fa la saldatura lucida, bella, senza essere opaca come la fanno certi, ma l'ha fatta lì, per a poco la gamba l'ha giubbata, non ti giuro che siete male. Ah, ce la fa color... color argento, va bene, riprendi Cla. Aspetta, facendo la foto di questi microfoni. Sì, vabbè, già. E qui... Ma cos'è? Sono da saldare il figlio o la spinetta, c'è? Andiamo, vai, andiamo. E come l'hai fatta con la scritta, lui? Ah? Come l'hai fatta con la scritta? Con le mani. Come con le mani? Il computer. L'ho fatto... con il telefono. Ti bracciti? No, perché una scritta così la dovevo fare per mettere nel microfono, davanti al microfono. Lo volevo fare, volevo scrivere così. La si può fare. Ci vogliono i così adatti per farlo. Capito? Io me l'ha fatto nella cartoleria di mio padre, ma la fa, sono in bianco e nero. Le fa anche per mettere dei campanili, queste cose qua, capito? Ma l'ho messa come immagine, guarda, su WhatsApp. Che bella, che bella. Ciao, qua stavo seguendo i fornelli. Che bella. Guarda cosa mi sono fatto, sono malato su WhatsApp, già. Guarda, guarda, guarda. Segue le mie istruzioni, in casa, quella che la stazione diventa più bella, più spaziosa. Sì, come anche tu con mia moglie, sì. Mi tolgo tutto, poi c'avevo la sua tavola, con la stanza la sto riempiendo di nuovo. Sì, sì, domani. Sì, vabbè. È passione, se uno non ce la faccia non capisce. Non ci riesco già, non ci riesco, credimi che non ci riesco. Non ci riesco, capito? Questo cos'è? No, aspetta. Non ci riesco, non ci riesco. Io sono vedo per radio, stavo soffrendo con quella base lunga 2,50 m, cazzo, vuota, ma che è stato. E ne fate ancora in radio. Bisogna informarsi se è una malattia o no. Sai che cosa che ci piacciono le radio da parte agli occhi. Sì, hai visto la parte che è, la sto trasmettendo adesso. Sono le due radio che uso, non è tanto ore. Tutto di linea e sotto la foto non l'ho fatta perché è buio e sotto ci sono le buone che non uso, però me le devo avere, chissà mai devo fare qualche prova, qualcuno mi dice passa lì, devo passare, capito? Però è molto ordinata, molto meglio di prima, prima era tutta molto male, anche se era ordinata, ma era, le cose erano troppo, capito? Gli HF con i baracchini, con le cose non mi piace, adesso ho separato tutto, va bene così. Ciao ragazzi, poi va bene, dai. Ma io penso che c'è un po' di ragazzi. Vabbè, quando c'è il fuoco già devo stare a cinci schiaccio, il fuoco lo uso, c'è la biglia in curva. Ah, poi Luca, non c'ho il telefono qua, che vado a prenderlo, ce l'ho in salone. E me lo stavo mettendo a prezzo, me l'ho portato a prezzo. Aspetta, ora questo qua già. Luca, ma tu la pasta... Aspetta un attimo, qua. Cosa già? La pasta salda la usi quando sale. La pasta salda la uso per saldare, il connettore dell'antenna TV. No, no, io per... Io la uso anche quando faccio le saldature nei microfoni. Ma ieri per dire che ho fatto con lo spezzone e con il riduttore da... Sigari a banalina, gli ho fatto, l'ho usato la pasta salda per saldare, che non bagna appena appena, la pasta salda e poi salda, e poi anche la spugnetta bagnata, quando sto saldando pulisco sempre la punta con la spugnetta bagnata. Guarda questo ci ho mandato già. Lo dovresti scrivere per la stampante, la G, la D e la R, di RU, Gianni, dopo tutto quanto maiuscolo. Aspetta, tutto maiuscolo allora, sì. Tutto maiuscolo. Maiuscolo stampante. Le lettere iniziali sono. Che vedere. Guarda così già. Io ho la maglietta così, anche la maglietta l'hai fatto. Eia, sì, sì, sì, così, così. No, usa maglietta, va. Questa maglietta mi costava, no. Assolutamente. Il cappellino già me lo vorrei fare. Io ce l'ho però non è cibisparviero, io sono zero di FB. C'ho tutto, c'ho un berretto, due polo, una maniche corte, una maniche lunghe, il giubbotto che è un bel bello. Tutta la divisa c'ho, ma avevo un attore quando facevamo i corsi, quando facevo i rally, l'assistenza a rally, capito? Tanti di una lampada in gas, barcare due. Sì, 80 euro, 80 euro, fiava, 80, 90, dipende da cosa facevi, intermedio mi sembra che erano 80 euro, forse 100 euro era alla partenza o all'arrivo, non mi ricordo. Quindi conosci la Giuseppe Carbone? Beh, era gente com'è, era gente da noi, dove c'erano le mattoni c'era il fuoco acceso, quindi si mangiava, si beveva, era gente con noi. L'ultima che ha fatto ieri. Sì, domani è 2, oggi 1, sì, ieri, 30 novembre, sì. Scorpione, sì, perché io sono 20, sì. Me l'ha scritto la sorella, no? Io ho contatti con la sorella. Io sono molto amico di famiglia loro, li conoscevo da piccoli, da bambini. Le sorelle gemelle, a lui, giocavo con lui, certo, giocavamo ai soldatini con le pistole, con tutto. Ce lo conosco da un po' di anni, Giuseppe. No, vabbè, io ce l'ho nell'elenco dei posi, capito? Perché lui faceva il commissario del percorso e quindi ce l'ho ancora. E c'è la data, quindi sì, è 30 novembre. Io mi ricordo che era Scorpione, perché ci prendevamo in giro, capito? Perché c'era un altro allenatore che, senza fare nomi, era come si dice, avevamo fatto segno di reazione, comunque lo prendevamo in giro, no? Ah, poverino, bravissima persona, un po' fuori di testa, ma bravissima persona, peccato, vabbè. I migliori sono quelli che ce ne vanno, avanti lui. Sì, ogni tanto faccio la coccoletta alla bambina, là, che sta lì. Oh, se io molte volte capita, perché per via del pavimento, no? Che quei pavimenti un po' vecchi, come si dice? Quando ho perduto qualcosa, una vita, non la trovo mai, mi già vai da che mi la ciappa. Poi te la sentivo rosicchiare e l'ho trovata dentro la cuccia. Capite, vite di pratica, di ferro. Cosa qua? Una vite di ferro, di pratica. Di ferro qua. Minchia, stai attento, cazzo, ingoia le buca, cazzo, l'intestino, che. Prendi un gengivotto, cazzo, vai alla casa degli animali, come ho fatto io a Filippo, c'era anche Gianni sicuramente, una ballina, che cosa da rosicare. E prendi il gengivotto, è un pezzo di corda, me. Con una pallina attaccata, finito che hai due terre sui fingenti, là ce l'ha tutta mangiata, ma è corda, capito? Poi la butta fuori quando fa la cacca, però cazzo, non vite, ce la ingoia, cazzo, ti greba l'ugani, eh. No, c'ha l'osso qua, c'ha la pallina, non è la giù che ha voglia, no, lì c'ha l'osso, quell'osso non so di cosa sia fatto, di pelle di animale, di retto. Sì, bravo, proprio quello, ce l'ha, ne ho preso due pacchi già, qualcuno se l'ha già sgranocchiata, qualcuno l'ha perso, non si trova più, no, già pirà, ce l'ha, cappa cappa. Dai, che non li vedeva nemmeno, quindi non si chiama qualcuno in... sono mangiato in due giorni, ma di grosso mi ricorda, la tutta la pattizia, ce la metteva di fianco, i sugar. E vai a prendere, se la prendevi ti mucingava a buco, ma vabbè. Beh, alla fine non è commestibile la corda, cla. Cosa? Ho detto, la corda non è commestibile. Sì, vabbè, io cosa potevo fare, facevo, cercavo i fogli di ripresi. E la pulivo a volte con la forbice, quello che ti ho sfrangiato, però io la medaglia era magnata, ma gli dico non è morto, vuol dire la cagata. No, io la cosa non l'ho mai comprata, io gli ho comprato la roba che non li faceva male, ma con quei bufatti, quelli che di peluche, roba del genere, mai l'argine perché li svuotano, peggio, ne hanno fregato uno da sopra il lettino della cameretta che ci volevo infatti di peluche, no, ne ha fregato uno, ce l'ha portato nella sala, tutta la tamminata, che l'ha aperto, dici che tutta la lama pure, quella cos'è, ovata, cos'è, tutta la carta sparsa nella sala, non è a casino. No, io peluche non ne ho mai dato al cane, nulla, manco roba di plastica, sono le palline, delle palle che avevo comprato, inizialmente ci giocava, morsicava, ci giocava, poi no, non ha voluto più, ormai è grande il cane, è sempre dormito, non ne ha più voglia, già è un problema farlo uscire, è un problema farlo, se vuole uscire già, come dice lui, ma se lo devi portare tu, allora tu hai sbagliato. Devo fare attirarlo, io, capito già, è grande il mio, no? Lui mi... Non vado da qua, guarda, sotto la televisione, c'è il riscaldamento acceso, c'è il pavimento caldo, ecco caldo lì, nel lettino suo, eppure coperto, figurati, dormito con la ringavora, no? facciamo niente. Il rosso le metti? Tutto uovo, tutto completo. No, il rosso metti che il bianco non è non va bene per i cani, ci abbiamo noi già. Solo il rosso, io lo metto il rosso. Ad esempio quando faccio la pasta in bianco, senza niente, lo metto un torro rosso, di rosso, gliela giro e un cucchiaino di formaggio grattugiato, capito? Un cucchiaino giusto per dare sapore, se vado a poco. Io faccio così lo stesso, ti metto la pasta e il formaggio grattugiato e ti metto anche la carne, ti metto un pezzo di cuore, oppure ti posso dire una fettina di... compro la carne di cavallo, una fettina la do a lui e una a me. Anche faccio così, quando prendo il pollo. Il pollo lo stesso, che facciamo il pollo in brodo, bollito e tutta la parte del petto che è molto asciutta, capito? Gliela faccio a pezzettini, la mettiamo a pasta e purtroppo è così, faccio quello. Ma lui mangia molte crocchette, lui piace molto le crocchette di carne, verdure, capito? Quello della moncia sto prendendo di nuovo perché la mangia molto, molto volentieri. Fa bene la cacca, non le ha mai vomitate, altre sono troppo pesanti, le vomita, capito? Il cane ormai essendo grande non c'ha più la digestione che aveva prima, tutto qua. Bene Mera, Gianni Mandendi a raffica, baracchini, non ne voglio baracchini, ma ne vuoi che una giosella entra l'armadio di baracchini, non ne voglio. Voglio vintage base, manda vintage base e io compro. Baracchini non ne voglio. Che baracchini sta mandando? Fammi vedere anche a me. Baracchini vecchi sono, baracchini vintage, ma tanto mandate manco uno, quindi. Esce zero buscia, e buscia dice dumme, sono un ragazzo giocando in piscina che non bevo più vino da 3 anni, capito? Non bevo più vino, fate male, fate ingrassare, quindi niente vino, solo acqua, carissimo Antonio Giuseppe di Sorso. Ciao, ci sto facendo un video, riprendi già, ciao Giuseppe. Antonio Giuseppe, ti accompagni una pedifera di Carelli, la sua comune ti costa 2 euro. Io non so cugiare. E poi lo ascolto basso. Chi sei tu, cavaricuni? Disastro. Che ascolto basso. Io che sento Santiago Sette, la radio è un po' sacro, da lì forse si è attaccato, non lo so. La radio è un po' sacro, però ti ascolto con Santiago di Sette. Quanto era un tempo di cune? Lo sa che è una regia. Avanti, Claudio. Aspetta, Claudio. Antonio Giuseppe, quanto era un tempo di cune? Sta domandando quanto era un tempo di cune. A noi arriva Santiago 8 già. Santiago 8 col K. C'è un punto più di te. Santiago 8, vabbè, siamo lì comunque. Pensavo che arrivasse più forte a te, perché sei più favorevole a lui. Abito Luca, Gomentero dentro in Toscana, non lo sai che c'è la regia, quindi tutti a casa. Cla, in Toscana, Toscana, no Toscana, Toscana. In Toscana, riponi tu, fa com'è? Io non so come travagliare, no, non so come travagliare, sono con piccioni. E allora, purtroppo sì. E non questi la rimane in Maggiui. Te credo, ma purtroppo la vita è questa e la sentiamo come. Avanti. Se l'Italia non risponde ne vuol dire che giocano con il cane, dai, a gara di giocare, ma tra un ritmo, ma lì se parlato non ci sa se fai mio letto. Ah? E non ho capito nulla, hai parlato veloce, tutto quanto ha scritto. Ho detto, se è in ritardo a rispondervi, che sto giocando con il cane, che vuole salire sopra il mio letto, sopra il mio letto non ci sale. Ah, ho capito, va. E tu metti una copertina come ho fatto io, quando vuole salire lui si trova il culo vicino a me, ma a me non mi disturba, li metto una copertina e il letto non lo sporca, perché c'è la coperta sua. No, già poi si abitua così e lo fa sempre, no, meglio di no. Intanto se mi dici sì, è caduto così, allora io nella cameretta non lo faccio mai entrare, siccome ci sono le parti che piacciono a lui, però ho paura di... fare. Quando vede la porta aperta, magari io sto dormendo, prende, entra dentro la camionetta e cerco di cacciare un pazzo, si dà pace a tutti i gatti. Tu devi vedere, è da fare una fotografia. Cioè, uno se non fa, se la fa, c'è la cacciare di caccia fra con la testa. Ehi, casino sto cazzo di cane, sono belli però. No, io non me ne frego. A me piacciono troppo gli animali e i cani in un modo particolare, sono in una caccia di apparato. Ma va, dici la testa. Aspetta, sto commutando, ecco qua. Allora, adesso sto andando col DAC MBP5, mi ascoltate, sì? Ci ascoltiamo, sì. Oh, adesso sono seduto dall'altra base, no? E scelta più piena che c'è, però, mi piace di più. Lucarie, che ieri c'avevo quel problema del connettore, adesso va bene? Perfetta. Te l'ha giudito, giochi sul gatto di connettori vecchi che c'avevo. Con tutti quelli comprati da Fugiaro. Stamattina li ho messi dentro una busta e tra l'altro hanno fatto tutto il gascetto della plastica, perché neanche uno mi va bene qua. Ogni volta che prendo uno di quei spezzoni già, va che attacco i vintage, ho problemi, capito? Allora sono salito sui mansarde, oggi mi sono preso 5 metri di che ce l'avevo, di H1000, c'avevo i PL, ma fanculo, non volevo utilizzarli. E ho fatto gli spezzoni con la H1000 e i PL buoni, perché altrimenti non va bene, non va bene. Sono PL del cacchio proprio. No, io